Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. Adesso, al Belvedere, anche Chiara e Federico parlavano spesso tra loro di quei famosi quattrini che doveva possedere Don Blasco. Il marchese temeva che li sciupasse con la sigaraia. Avrebbe voluto proporgli di metterli al sicuro, di impiegarli, di comprarne altrettanta rendita, se il monaco fosse stato un altro, se ogni semestre, avvicinandosi la scadenza delle cedole, Don Blasco non l'aveva vessato, punzecchiato, tormentato, profetandogli il subisso di quel titolo. Sottovoce, l'uno all'orecchio dell'altro, gli Uzeda riprendevano a darsi del matto. Non era matta Chiara, che trattava la cameriera come una sorella e il bastardo di lei come un figlio suo proprio. Non era matta Lucrezia, che maltrattava quel povero diavolo di Benedetto in tutti i modi. E che cos'era donna Ferdinanda, la quale, senza che gliene venisse nulla, si impacciava di tutti gli affari della parentela? E che dire del principe, il quale, dopo aver dimenticato per tanti anni la cugina, adesso si metteva con lei sotto gli occhi del figlio? L'antipatia di Consalvo per donna Graziella cresceva forse per questo ogni giorno. E fra Carmelo? Gli domandavano di tanto in tanto donna Ferdinanda, la principessa, Lucrezia, che ne è di fra Carmelo? Ma il principino non sapeva, né curavasi di sapere che fosse avvenuto del suo antico protettore. Una mattina, al Belvedere, mentre la famiglia si levava di tavola dopo colazione, Baldassarre venne ad annunziare. «Eccellenza, c'è fra Carmelo! Fra Carmelo!» Nessuno riconobbe il fratello dal faccione bianco e roseo, dal pancione arrotondato sotto la tonaca, nel personaggio che s'avanzò verso il principe, con le braccia levate. «Me n'hanno cacciato! Me n'hanno cacciato!» In qualche mese era dimagrato della metà e sul viso giallo e floscido, gli occhi un tempo ridenti, avevano una strana espressione di inquietudine, quasi paurosa. «Me n'hanno cacciato! Eccellenza! Me n'hanno cacciato!» E guardava tutti i signori, tutte le signore, quasi a provocare la dimostrazione del loro sdegno contro quella mostruosità. «Dunque era vero! Ma che non sa da far nulla! Voi altri che siete ascoltati, lascerete che questi scellerati rubino San Nicola, San Benedetto, tutti i santi del paradiso! Che possiamo farci?» esclamò Consalvo fregandosi le mani. E donna Ferdinanda aggiunse: «Avete voluto il governo liberale? Godetene i frutti!» Quando gli Uzeda tornarono in città, al principio dell'anno nuovo, una lettera del duca Benedetto annunziò che la camera sarebbe stata sciolta fra poco. Egli non si dava neppure questa volta la pena di venire, incaricava i suoi amici di lavorare per lui. Gli affari non gli consentivano di lasciar Firenze, e questi affari, in fin dei conti, erano più quelli degli elettori che i suoi propri. Un giornaletto satirico settimanale, il Ficcanaso, faceva ridere la gente, dicendo che l'onorevole Doragua aveva fatto alla Camera quanto Carlo in Francia, senza neppure aprir bocca. Ma, considerando le velleità d'opposizione, gli amici del deputato volevano ottenere una vittoria strepitosa. Infatti, gli misero insieme quasi 300 voti. Il duca, riconoscente, fece cadere sul collegio una nuova strabocchevole pioggia di croci di San Maurizio e San Lazzaro. Benedetto ne ebbe una tra i primi, e la cosa non gli fece certo dispiacere, quantunque egli si stimasse cavaliere per nascita. Ma dal giorno di quell'annunzio sua moglie non gli dette più requie. «Cavaliere! Senti, senti, cavaliere! Che fai, cavaliere?» E se c'erano altre persone, aggiungeva invariabilmente: «Perché adesso, non sapete, mio marito è cavaliere, sì signori, senza cavallo!» La vera, la prima origine della durezza con la quale ella lo trattava da un pezzo, era la persuasione finalmente radicatasi nel suo cervello che egli non fosse abbastanza nobile per lei. Thank you. Al principio dell'estate, benché la camera fosse ancora aperta, arrivò il duca. Ricominciarono le solite dimostrazioni degli amici e degli ammiratori. Egli saliva in cattedra con maggior sicumera di prima e commentava l'opera del Parlamento. La soppressione delle società religiose era il gran fatto dei tempi moderni. Egli ne enumerava e dimostrava gli immensi vantaggi. Prima d'ogni cosa, i latifondi tolti alla mano morta avrebbero raddoppiato e migliorato i loro prodotti, a vantaggio dell'agricoltura, industria e commercio, sorgente precipua di ricchezza sociale. In secondo luogo tutti, anche coloro che non avevano capitali, potevano diventar proprietari aggiudicandosi piccoli lotti da riscattare con lo stesso frutto della terra. Finalmente il governo, con l'utile della vendita, avrebbe scemato le tasse, a sollievo della finanza pubblica e privata. Donna Ferdinanda, dal canto suo, era contrarissima per scrupolo religioso e minacciava anche lei le pene infernali ai compratori dei beni della Chiesa. La principessa, che stava peggio in salute, appoggiava la zia. Il principe stava a sentire le due campane senza esprimere la propria opinione. Lucrezia, dal canto suo, spingeva Benedetto a comprare, ad arricchirsi, perché adesso lo credeva non solo ignobile, ma anche miserabile, uno che non possedeva neppure uno straccio di fondo, mentre in casa Francalanza ce n'erano 16. Frattanto il Parlamento discuteva un'altra legge, a vantaggio dell'incremento pubblico e privato, come spiegava il duca, sebbene non andasse alla capitale. Quella cioè relativa allo svincolo delle cappellanie e dei benefici laicali. E il principe, zitto zitto, cominciava a tenere conferenze col notaro e col procuratore legale, preparava i suoi titoli per ottenere i beni di tutte le fondazioni degli antenati, specialmente della cappellania del Sacro Lume. Quando un bel giorno Don Blasco, che da un certo tempo non metteva piede a palazzo, vi piovve inaspettato. «Badiamo, voi! Se si svincola la cappellania, la roba va divisa fra tutti i consanguinei!» «Vostra eccellenza si inganna», rispose il principe. «I beni rientrano nel fede commesso». «Che fede commesso d'Egitto? Dov'è il fede commesso? Sono 40 anni che è finito e i titoli li ho letti anch'io!» Ma non ci fu tempo di approfondire la questione e di concretar nulla, che una sera d'agosto, mentre a palazzo una folla di invitati assisteva alla processione del carro di Sant'Agata, arrivò il duca giallo come un morto, annunziando: «Il colera! Il colera! Un'altra volta!» Gli Uzeda erano arrivati al belvedere poche ore dopo la notizia portata dal duca, e questi aveva preso posto nella prima carrozza, tanta tremarella aveva in corpo. La cugina Graziella ancora una volta coi cugini. La sua presenza adesso diveniva tanto più necessaria quanto che la povera principessa andava peggio. E o fosse la paura del colera o il disagio della fuga improvvisa, appena arrivata alla villa si mise a letto. Un po' per questo, un po' per la tristezza generale prodotta dal sapere le stragi che faceva in città la pestilenza. Non più ricevimenti, non più giuochi, non più veglie. Il giorno passeggiavano nel podere. Con Salvo, Benedetto e qualche altro s'arrischiavano per le vie. Ma all'ave il principe voleva che tutti fossero in casa e faceva sprangar tutte le porte e tutti i cancelli. Don Blasco, alla villa del Marchese, si teneva prudentemente nella propria camera e non andava neppure a litigare con Giacomo, anche per evitare la compagnia di quel farabutto del duca. Ma improvvisamente, un brutto giorno, la costernazione crebbe fuor di misura. La pestilenza era scoppiata al belvedere. La serva di certa gente venuta 3 giorni prima dalla città agonizzava. S'udiva la campanella del viatico per le vie deserte come quelle d'un paese morto. «Bisogna scappare! Scappiamo! Subito! Alla via grande, alla Zaffarana!» La principessa da alcuni giorni aveva lo stomaco rovinato. Non digeriva più. Si trascinava penosamente dal letto alla poltrona. E giusto per questo tutti convennero che bisognava metterla in salvo prima degli altri. Marito e moglie partirono dunque subito con lo zio e Baldassarre. I dolori di viscere non la lasciavano più. A momenti pareva che l'avesse i crampi del colera. Tanto che il duca, atterrito, pensava di scapparsene più lontano. Ma la paura di lui era fuori di luogo. Quei dolori, quelle disposizioni al vomito, la principessa li soffriva da più di un anno. Non con l'intensità di adesso, è vero, ma con lo stesso carattere. Il principe, assicurando lo zio, gli manifestava altri timori. «Margherita non ha voluto mai chiamare un dottore, ma io ho una gran paura. M'hanno detto che forse ha un cancro allo stomaco». ma il duca non gli dava retta. Per adesso aveva da pensare alla propria pelle, perché il colera poteva scoppiare da un momento all'altro alla Via Grande. Anzi, qualche allarme c'era già stato. «Andiamo via», insisteva. «Andiamo più lontano, al Milo, a Cassone, sulla montagna». Il principe si preparò a partire per Cassone. «Vuoi venire anche tu?» ripeté alla moglie. Ella aveva passato una notte orribile, senza sonno, tormentata dalla nausea e dal vomito. S'era levata a stento, pallida e disfatta, così che Chiara disse: «No, lasciala. Verrà quando avrai trovato la casa». Ma la cugina Graziella fu di contrario parere, udendo che i casi si moltiplicavano rapidamente nel villaggio. Fino a sera non sebbe più notizia di loro. Già Don Blasco parlava di mettersi a cavallo a un asino e di andarsene non importa dove, quando all'alba del domani arrivò Baldassarre, pallido, stravolto e tremante. «Eccellenza! Eccellenza! La padrona! La signora principessa! Attaccata di colera! Spirata in 3 ore!» Al matrimonio del principe con la cugina Graziella, celebrato 3 mesi dopo la cessazione dell'epidemia, solo i parenti e pochissimi intimi furono invitati. Il vedovo era ancora in gramaglie e il chiasso d'una festa sarebbe stato inopportuno. Del resto, il principe stesso spiegava che quel matrimonio era di semplice convenienza. Tanto lui quanto la sposa avevano molti autunni sulle spalle, associavano quindi i loro destini senza nessuna delle fantasticherie giovanili, e solo per fare assegnamento sull'aiuto reciproco che si sarebbe prestato. La cugina aveva bisogno di un uomo che tutelasse gli interessi di lei, che le ridesse una posizione in società. Il principe trovava una nuova moglie ai propri figliuoli. Quella unione, prevista da alcuni fin da quando la cattiva salute della principessa aveva fatto temere per la sua vita, aspettata poi da un giorno all'altro dopo la catastrofe affrettata dal colera, riscuoteva perciò l'approvazione quasi generale. Il confessore, il vicario, tutti i preti che bazzicavano per la casa l'avevano giudicata conveniente e provvida. Che donna Graziella avrebbe fatto da madre ai figli del principe era frattanto fuori di dubbio. Baldassarre aveva riferito ai suoi dipendenti, e questi ripetevano dovunque, i particolari delle lettere scambiate tra la sposa e la principessina. La ragazza aveva saputo a Firenze la morte della mamma. E che pianto! Che convulsioni! Basta dire che la direttrice del collegio si era messa le mani in capo, non sapendo come fare. Povera signorina, aveva pure ragione. Sola, lontana da casa sua, senza poterla abbracciare un'ultima volta. Mamma mia! Mamma mia! Bisognava leggerle queste lettere, perché alla Santissima Annunziata le signorine ricevevano un'istruzione come fu. Consalvo invece era freddo anche col padre, lo evitava. Stava settimane intere lontano, in campagna, a caccia, tanto che a poco si vedeva il principe gonfiare, gonfiare, gonfiare. Il maestro di casa, tanto amante della pace, se ne accorava e lavorava a rabbonire il padroncino. Consalvo lo lasciava dire. A un certo punto gli rispondeva, freddo freddo: «Non mi seccare, vada al tuo servizio, non mi seccare. 2 giorni prima della cerimonia, anzi, andò via con Giovannino Radalì e altri amici, a caccia, dicendo che sarebbe rimasto fuori 24 ore. Invece, il giorno degli sponsali, quando il padre e la madrigna con gli invitati andarono al municipio, egli non era ancora arrivato. Donna Ferdinanda era tranquillissima, sapeva bene che il suo protetto aveva dovuto combinar la cosa per non assistere alla cerimonia nuziale, e in cuor suo lo approvava. Bella sciocchezza da parte di Giacomo, quella di dare a intendere che s'ammogliava per non lasciar senza madre i propri figli. I suoi figli non erano più bambini da doverli allattare. E poi che grande autorità aveva esercitato su loro la madre. Il principe non le aveva mai permesso d'attaccar loro un bottone. Adesso, invece, chi si sarebbe visto? La pettegola cugina far da padrona in casa Francalanza. E che restava ormai dell'opera della defunta? Raimondo non aveva anche egli disfatto il matrimonio voluto da lei? Lucrezia, che doveva restare in casa, non si era sposata? Strambi, cocciuti, pazzi. Chi la fa l'aspetta, dice un altro proverbio, e il principe, che s'era fatto pagare da Raimondo e da Lucrezia per dar loro il suo appoggio, aveva dovuto chiudere la bocca allo zio, perché questi, che non aveva mai avuto peli sulla lingua, s'era messo a cantare che la faccenda della morte della principessa non era tanto liscia, e che aver costretto la povera Margherita a scappare a Cassone mentre stava così male e aveva anzi i primi sintomi del colera, era stato un voler sbarazzarsi di lei, dopo averle dettato un testamento nel quale s'era fatto lasciare ogni cosa e niente ai figli, e che la freddezza di Consalvo non era poi senza ragioni, e che La questione che impensieriva per il momento il deputato era quella del municipio. Le cose vi andavano male. Gli amici del Granduomo lo pregavano con insistenza di prenderne le redini, di dare questa nuova prova di affetto al paese. Ma egli dichiarava che non la volontà, ma la forza gli faceva difetto. Era già deputato, consigliere comunale e provinciale, membro della Camera di Commercio, del Comizio Agrario, presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca di Credito, consigliere di sconto alla Banca Nazionale e al Banco di Sicilia. E quasi tutto questo non bastasse, lo mettevano in tutte le giunte di vigilanza, in tutte le commissioni d'inchiesta. Gli avversari, i repubblicani, i malcontenti, gridavano contro questo accentramento di tanti uffici in una stessa persona. E giusto il duca s'era fatto forte di tale ragione per rifiutare la sindacatura. Benedetto, dopo il gran dolore delle disgrazie sofferte, ricominciava allora ad occuparsi degli affari pubblici e insisteva presso lo zio, gli ripeteva l'invito a nome del consiglio comunale, adducendo la mancanza di persone capaci. «Non mi darai a intendere», rispose il deputato, «che io solo possa fare il sindaco. Perché non lo fai tu?» «Perché io non ho i titoli di vostra eccellenza. Dimmi che accetti e fra 15 giorni avrai la nomina». Benedetto continuava a schernirsi, sorridendo, fingendo di non credere alla serietà dell'offerta. In cuor suo, egli non desiderava di meglio. Ma una grande difficoltà lo arrestava, l'opposizione di sua moglie. Costei dimostravasi sempre più irascibile quando udiva parlare di cariche pubbliche, di uffici elettivi, di politica liberale. Minacciava di far mandare ruzzoloni giù per le scale le persone che venivano a cercar di lui nella sua qualità di consigliere comunale o di presidente del circolo nazionale, e di lacerare, prima che egli le leggesse, le carte indirizzate a suo marito. Se gli muoveva tanta guerra per così poco, che avrebbe fatto sapendolo sindaco? Le era parso che quel titolo di sindaco avrebbe nobilitato in qualche modo il marito, conferendogli l'autorità, il lustro, l'importanza che non aveva. Invece, dopo che il duca ottenne per Giulente la nomina, s'accorse che egli restava più Giulente di prima. Una specie di impiegato, un miserabile passacarte, un servitore del pubblico. A misura che le dimostravano il suo torto, l'affezione e il rispetto di cui Benedetto la circondava, la sua avversione cresceva. Ella immaginavasi d'essere maltrattata e attribuiva al marito ogni specie di torti. Giacché i Giulente non avevano avuto concessione di feudi, lo giudicava miserabile, ma non potendo ragionevolmente dare a intendere questo, l'accusava d'avarizia. Egli sopportava pertanto le stramberie, i capricci, le contraddizioni, i rimproveri, le ironie di lei. Ma la sorda guerra della moglie non gli nuceva meno della protezione dello zio duca. Questi, che oramai non andava più alla capitale, consacrava tutto il suo tempo ai propri affari, badava le cose di campagna, migliorava le proprietà comperate alla mano morta, speculava sugli appalti, si giovava del suo credito presso le amministrazioni pubbliche per rifarsi di quel che gli costava la rivoluzione. Per rispetto e per soggezione, soprattutto per la speranza di raccogliere l'eredità politica dello zio, Benedetto non osava contrariarlo. Se per qualche fatto più grave degli altri egli esitava un momento, il duca vinceva quegli scrupoli o adducendogli la necessità della lotta politica o impegnandosi a riparare più tardi o facendogli semplicemente comprendere che in fin dei conti a quel posto l'aveva messo lui, perciò conveniva che facesse ciò che a lui piaceva. Per compenso gli garantiva l'appoggio del governo e della prefettura, lo sosteneva in consiglio, tesseva i suoi elogi perfino in famiglia, tenendo fronte a Lucrezia, che lo vilipendeva dinanzi a tutti. Questa, per far la corte allo zio, rispondeva che un po' di bene suo marito lo faceva solo quando seguiva i consigli di lui. Viceversa, da sola a solo con Benedetto, gli rinfacciava la cieca obbedienza prestata al duca. Con Salvo sì, poteva fare e faceva quel che gli piaceva. Non solo egli non badava agli affari di casa, che suo padre ci pensava per lui, ma non stava in casa se non per dormire, quando ci dormiva. Lasciata la camera che aveva occupata al ritorno dal convento, s'era accomodato un quartierino al primo piano, dalla parte del secondo cortile, sfondando muri, murando finestre, aprendo una nuova scala, disordinando ancora un altro poco la pianta del palazzo. E il principe si piegava anche a questo, con gran stupore di tutti quanti conoscevano la sua prepotenza, il suo bisogno d'assoluto comando.